Siamo con Massimo Fagioli, questa è Radio Radicale, approfittiamo della sua disponibilità per tornare a conversare un po' con lui. Lo facciamo usando un volume appena uscito per le edizioni dell'Asino d'Oro, che raccoglie i contributi, i testi scritti dal professor Fagioli per la settimanale Left nell'anno 2006, si chiama proprio 2006 questo, sì, questo volume. Potremmo andare per parole, professore. Una di queste, che ha un stretto legame anche con i temi di questa attualità, è la parola amnistia, carcere, indulto, amnistia, pena e anche funzione del carcere. Io le chiederei di partire da questo, anche approfittando appunto dell'attualità, di quello che sta succedendo in questi giorni, ancora suicidi in carcere, ancora botte in carcere per i detenuti. Che... uccisioni, mi pare. Sì. Anche un po' di più che botte. Sì, sì, sì, ma io qui, uno, due, mi pare che questo si riferisca proprio a giugno del 6, no? Esatto. Quindi ho scritto degli articoli, perché lì c'era la questione dell'indulto. Sì. Ci andò l'indulto, che tuttora, salvo in coloro che vogliono imbrogliare le cose dicendo che ritorno tutti in carcere, non è vero niente. Ho sentito la conferma, eccetera, che mentre di norma, per tutti coloro che scontano il 100% della pena, chiesto anche 20 anni, 15 anni e 5 anni, il rientro, il ritorno al reato è del 70, più del 70%. Sì. Quelli che sono stati, questa brutta parola, indultati, no? Mm-hmm. Che hanno usufruito dell'indulto, è il 28-30%. Quindi l'indulto serve ed è significato. E lì se ne parlava appunto, quindi l'amnistia. E anche con Marco Pannella in agosto, io gli dico che sono più radicale di lui. Lui pensa all'amnistia per liberare i processi, questi 100.000 processi, cose mostruose, insomma nemmeno da parlarne. In modo che facciano poi dei processi regolari, eccetera, eccetera, e che la giustizia si rimetta in moto. Io vado oltre, io faccio un pensiero, un po' utopistico, però come idea, come impostazione, come ricerca cultural-politica, mi interessa, perché le carceri andrebbero abolite, non hanno senso. Anzi, è una violenza dello Stato o della società contro la società che divora se stessa, uccide se stessa. I piccoli reati, i famosi eterni antichi ladri di galline, o di mele o di frutta, eccetera, non possono andare in galera. E la cosa interessante è che questo che io sto dicendo da sempre, l'ho sentito alla radio ieri, che occorrono pene alternative, lavori socialmente utili, eccetera, eccetera, e così via dicendo. E con questo si sfoltiscono le carceri più del 50%, perché vengono messi in carcere delle persone, ragazzi, eccetera, che devono scontare 3 mesi. È una cosa completamente assurda. Quando c'è il delitto efferato, è quello che fa, quella è malattia mentale, questo è il mio pensiero. E quindi va fatto un discorso, e questo sta per un verso nella Costituzione, che il carcere deve servire per riabilitare, estendendo riabilitare se uno è malato, come è successo, si è visto chiaramente che ci sono dei casi, no, che uno si è suicidato, eccetera, eccetera, per gravi depressioni. Ovviamente la punizione non c'entra, ovviamente va curata. E chi la può curare? Ovviamente l'unica categoria sarebbero i psichiatri, mi pare assolutamente chiaro. Ecco, per cui le carceri non hanno senso, come non ha nessun senso che di fronte al reato o di fronte così alla cattiveria si punisca. Ma che vuol dire che si punisca? Per me non è niente, si punisca è un pensiero di antica origine, che l'uomo è cattivo e quindi va educato, no? Anche con i bambini bisogna cominciare a prenderli a botte. non è vero niente, è tutto completamente falso. Queste sono idee religiose, cattoliche, che la persona vada educata, no? La persona, il bambino va fatto crescere, va sviluppato, eccetera, va favorito nel suo sviluppo, nella maturazione dell'intelligenza, eccetera, eccetera. Questo è per quel che riguarda questa parola amnistia. Amnistia. Prendiamo un'altra parola, professore, perché anche questa ha un legame forse meno, diciamo, di impatto per il grande pubblico, però interessante per l'attualità e anche per le nostre conversazioni. La parola rivolta, lei a un certo punto ne parla. Straordinaria la rivolta, ci hanno parlato a Chianciano poco fa, pochi giorni. E io per questo glielo chiedo, perché lei tra l'altro in uno di questi articoli commenta uno scritto di Sanguinetti sulla rivolta e la ribellione, la rivoluzione. Ci vuole spiegare meglio che differenze ci sono tra queste parole? Perché io farei una premessa che non è soltanto una premessa, ma è un pensiero che io ho da tempo e che andrebbe sviluppato, cioè portare alla politica il discorso, quello che volgarmente viene detto psicologico, eccetera, eccetera, sulla realtà umana. Per cui io lì poi arrivo, e la cosa bellissima del congresso radicale, dei radicali, non del partito, dicono no, è che questo discorso così sofisticato l'hanno accolto benissimo. Sembrava che tutti sapessero di queste sofisticazioni psicologiche sull'inconscio, non inconscio, eccetera, eccetera. Cioè questa nettissima distinzione tra le due parole, che significa negazione e rifiuto. Il rifiuto è quello che va fatto come rivolta, ma significa psicologicamente che uno vede la realtà per quella che è, la rifiuta perché non va, perché è violenta, perché è stupida, perché è negativa. E questo è il rifiuto, che è legato al vedere le cose, la conoscenza, avere un esatto rapporto con la realtà, sia che si tratti di cose, di tempo, sia che si tratti di realtà umane. Mentre la negazione è esattamente il contrario, cioè io non vedo la realtà per quello che è una bugia inconscia. E lì l'Ambonino mi ha seguito perfettamente, perché io ho fatto una battuta scherzosa, come sognare che Pannella è piccolo, magro, leggero, mingherlino, eccetera, eccetera. Questa è una negazione, perché non è la verità. E Bonino mi risponde, dice sì, sognare che hai i capelli corti. Quindi ha capito benissimo che questa è la negazione che deve essere rifiuto. E la cosa gravissima, le cose gravissime sono due. Uno, che nella storia del pensiero umano questa distinzione non è stata mai fatta in nessuna lingua. La seconda cosa è che in questa famosa storia dell'esistenzialismo, del basaglismo, che la sinistra ha accolto entusiasticamente, si parla di istituzione negata, non rifiutata. La negazione, e l'ho accennato anche a Marco Pannella, è una rivolta fascista e non è una rivolta per il progresso, per lo sviluppo dell'umanità. Chiaro? Non è un rifiuto. Fare questo nesso teorico sulla realtà mentale umana con la politica è una cosa affascinante. Per cui Pannella diceva, questi che mi sono venuti in casa, o qui alla sede radicale, a piantare il crocifisso sul portone, non so che cosa abbiano fatto, va bene, è una libertà. No, non è una libertà, è rivoluzione fascista, è chiaro, ed è violenta, è per la distruzione, per l'oppressione e per la dittatura. E questa è l'apertura, ed è una precisazione di quello che sì, Pannella sta accettando molto volentieri, di portare questa teoria sulla realtà umana in politica. Per cui in politica, nell'area laico, socialista, radicale, eccetera, si sostengono tutti i diritti civili, non ultimo ma in primis il discorso dell'identità della donna e della sua sessualità e delle sue gravidanze e della sua maternità. Bene, qui c'è uno scontro con la Chiesa cattolica, ma proprio mostruoso. Cioè, nel senso che questi non solo attaccano e dicono che il feto è vita, cosa assolutamente falsa, ma non vogliono nemmeno la contraccezione. Dico, ma proprio siamo fuori dal ben di Dio, viene da dire proprio ridendo. Non esiste, eccetera, quindi bisogna assolutamente opporsi. Ma finora, come tutti si sono opposti pensando ai diritti della donna. La libertà ha diritto di decidere per se stessa, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dire che questo è un falso, e quindi sostenere soltanto la libertà e l'autodeterminazione della donna significa metterla in una situazione di conflitto enorme, di sensi di colpa e di depressione. Perché? Perché dice sì, io utilizzo la mia libertà uccidendo il bambino. E nessuno gli dice, salvo io, che non uccido assolutamente niente, perché nella gravidanza non c'è la vita. È un fatto biologico pure e semplice. La possibilità di vita inizia dopo 24 settimane. Non la vita, la possibilità di vita. Cioè, se viene fuori dall'utero, potrebbe anche campare, anche con molte difficoltà e molti difetti spastici, eccetera, perché ancora non è maturo. Ma prima di 24 settimane non c'è nessuna possibilità di vita. Io faccio il paragone, ne ha più un seme di grano, un chicco di grano, che a determinate condizioni, terra e acqua, si sviluppa. Il feto ha nessuna condizione prima di 24 settimane si sviluppa. Per cui la storia dell'aborto non è una tragedia. Questo non vuol dire che va fatto con superficialità. L'aborto, mi pare giustamente Obama, credo che abbia fatto un bello scherzo al Papa, che lui dice sì, combatterò contro la piaga dell'aborto. Come si combatte? Ah, si combatte facendo una bella campagna di educazione sessuale sulla pillola. Per cui se si dà anche a ragazzi di 15 anni una buona educazione sessuale, per cui prendono la pillola, l'aborto si combatte. Mi pare assolutamente chiaro, senza punire le povere donne minacciandole e facendole votare per assassine, cose che dicono esplicitamente. Il codice napoleonico dice che se il feto non ha respirato, non è vita e non è omicidio. È omicidio soltanto se in un pezzetto di polmone, si chiama docimasia, galleggia nell'acqua, cioè c'è l'aria. Allora è omicidio perché ha respirato. Se non galleggia e va a fondo, non è omicidio, è aborto procurato. E allora parliamo un po' di uomo e di individuo. Nei suoi scritti, che rapporto c'è tra l'individuo e la società? L'uomo è un animale sociale oppure no? Sì, ma io ho i fondamenti teorici perché sia un animale sociale. Questo lo disse Marx. Lo disse Marx, l'uomo è per sua natura essere sociale. Però lui lo diceva a livello della ragione, a livello della razionalità. Io lo dico a livello della scoperta della nascita umana. Che la vita umana comincerà col respiro, col cuore no, perché il cuore batte da 3 mesi di gravidanza, da poche settimane, quindi quella non c'è molto cambiamento, salvo il circolo polmonare rispetto al circolo generale degli arti, eccetera. L'individuo quindi questa è la teoria difficile, e che tutti fanno difficoltà ad accettare. Il pensiero umano nasce dalla realtà biologica. E io ho detto le poche parole, per cui c'è una fantasia, memoria delle sensazioni, non delle percezioni, del feto con l'icro amniotico, con l'acqua sulla pelle, e questo è il primo pensiero, che è immagine, o se vogliamo approfondire, capacità di immaginare. E cosa immagina? Che è questa realizzazione emotiva, mentale, di pensiero? E io ho messo questa, la speranza, certezza che esiste un seno. Ovviamente nel neonato questo pensiero non c'è, perché non ha il linguaggio verbale, ovviamente il linguaggio verbale viene un anno e mezzo, due. E però c'è questa realizzazione di pensiero come immagine indefinita. Come immagine definita, che è l'unica parola che ho trovato nel vocabolario, è la fantasia. Quindi fantasia, eccetera, in contrapposizione alla razionalità, che è quella della coscienza, eccetera. E questa, qui, del primo anno di vita, tutto questo periodo in cui non c'è ancora il linguaggio articolato, sarà la base di quel terzo di vita in cui noi abbandoniamo coscienza, parola, comportamento e cadiamo nel sonno. Anche questa è un'altra interessante cosa da studiare, perché in 5.000 anni di filosofia, diciamo così, o in 3.000, come volete, nessun filosofo ha mai preso in considerazione il pensiero del sonno. Per loro, come è ovvio, che il pensiero è solo quello della coscienza. E se io obietto, ma tenete presente che la persona che dorme non è morta, quindi il pensiero ce lo deve avere, però non è quello della coscienza, non è il linguaggio articolato, è fatto di immagini. Esatto, il segnale, la spia di questo sono i sogni, quelle immagini che non sono ricorso, ma rimangono nella mente. La mattina risveglio per lasso di tempo X, poco in genere, molto poco, poi svaniscono perché vengono le percezioni della coscienza, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, se riuscisse ad andare in politica, quindi l'individuo, ho dimenticato una cosa fondamentale che ho detto a Chiaggiano. Questo, più che l'uomo, è un essere sociale, è che tutti gli uomini sono uguali. Io vorrei appunto che in questa storia liberale, radicale, eccetera, si infiltrasse un po' di socialismo, che farebbe tanto bene. E allora, tanto che arrivo a dire, ma Panellato, per esempio, questa parola, sì, mi convince. Arrivo a dire, e l'ho detto a Chiaggiano, che qui bisogna usare questo istinto di morte, scusa, tra virgolette, che è fantasia di sparizione, è ignorare, ma molto sanamente, per vedere una verità ancora più latente. Vale a dire, non nascono, bisogna smetterla di dire che nasce maschietto o femminuccia. La differenza non c'è, bisogna superare la percezione della realtà fisica per realizzare che c'è un essere umano, punto e basta. La nascita è uguale per tutti, per 7 miliardi di persone. Poi viene la differenziazione, poi crescendo in base ai rapporti con la madre, chi lo nutre, chi lo veste, quando, insomma, nei rapporti sociali ognuno si costruisce un'identità propria, originale, e quindi c'è anche la fusione tra realtà mentale e corpo, per cui uno realizza la fusione, non la scissione, tra il proprio corpo maschile e femminile. E questo serve per costruire un altro esistenzialismo, diciamo pure, del rapporto col diverso. Il cardine di ogni lotta con il razzismo e il nazismo è la dialettica uomo-donna. Nella dialettica uomo-donna io arrivo sempre a questi radicali, se ti piace, paradossi: non c'è il principio del piacere, c'è il principio del confronto di due identità uguali, perché tutte e due esseri umani, e diverse, perché una è femmina e una è maschio. Tanto che noi maschietti dobbiamo realizzare che quando chiudiamo la porta di casa e siamo con una donna, noi siamo di fronte a uno sconosciuto, anche se lo conosciamo come nome e cognome, una persona, una vecchia amica, perché le realizzazioni, le sensazioni, il desiderio, i pensieri, noi non li conosciamo, noi conosciamo i nostri, sentiamo i nostri, e allora sono due identità uguali, perché entrambi esseri umani, ma anche diversi, assolutamente diversi, addirittura sconosciuti l'uno all'altro. Ma una sanità mentale deve avere questa reazione fisiologica, ormonale, eccetera, di fronte al diverso sconosciuto. Questo significherà poi, fuori di casa, in società, in politica, accettare negri, gialli, pigmei, svedesi, vatussi, cioè persone differenti, apparentemente differenti, perché c'è un fondo di realtà umana, di nascita, che è uguale, anche se uno diventa lungo 2 metri, nero, eccetera, eccetera, uno diventa pigmeo, 1,50, eccetera, non ha nessunissima importanza la realtà fisica. Ho detto troppo? No, anzi, le chiederei un'altra cosa, certo, ancora presa da questo libro, che riguarda più direttamente la sua pratica e la sua teoria, diciamo, cioè il suo lavoro, certo, ultradecennale, cioè l'analisi collettiva e il rapporto con la sinistra, perché ne parla anche in questi articoli. Qui ci vuole un'altra intervista di un'ora e mezzo. Il cancro della sinistra, ha detto qualcuno, è questa analisi collettiva. Ci vuole spiegare che rapporto, e perché a volte i rapporti sono difficili? Perché poi lei spesso interloquisce con esponenti della sinistra che magari la criticano. Ah, sì, sì, c'è stata una reazione molto strana. Molto, ma molto strana. E adesso vediamo. Innanzitutto c'è da prendere in considerazione che io ho fatto tutto, le preparazioni ortodosse al 100% di medicina, di psichiatria, della cosiddetta psicanalisi, della cosiddetta Biswanger Esistenza Sein Analysis, quindi ho una formazione classica ortodossissima, e difatti poi dall'essere psichiatra dell'ospedale psichiatrico a in vari posti, a essere passato alla Dasein in Svizzera, a fare la comunità terapeutica di autosufficiente, cioè non senza infermieri, senza nessuno, ognuno faceva la spesa, faceva i letti, e se qualcuno entrava in crisi e minacciava il suicidio veniva assistito dagli altri pazienti, era assolutamente autosufficiente, non c'era nemmeno un infermiere, non c'era nemmeno una donna del polizia. Faceva tutto, sono passato questo, ho fatto tutto il training psicanalitico sul lettino nella ricerca dell'inconscio, sono stato iscritto alla Società Italiana di Psicanalisi Freudiana, quindi ho fatto, poi accadde che mi resi conto che la teoria di Freud era di una stupidità totale, mi resi conto che Freud non conosce i minimi termini della sapienza psichiatrica. Freud, questa è la grande cosa che o non hanno capito o non hanno voluto capire. Fa discorsi schizofrenici. Scrive 750 pagine di interpretazione dei sogni, così comincia il tutto. E afferma che i sogni sono allucinazioni. L'allucinazione significa che l'immagine non c'è, è un'invenzione del malato, se no non è allucinazione, non so se mi spiego. E tu che fai? Scrivi 750 pagine per interpretare immagini che non esistono? Io non lo so. Freud non conosce la bramosia, Freud non conosce il desiderio. Freud, le cose che ha preso, c'è l'Ellenberg, che era un vecchio volume di 1000 pagine, che raccontava tutta la storia, e che diceva che Freud non ha scoperto niente, ha preso tutte le cose a destra e a sinistra, da Ferenczi ad Abram, a Janet e così via dicendo, utilizzandole, sfruttandole e così via dicendo, chiaro? diceva che la donna era un essere inferiore, perché era affetta da invidia penis. Ecco, e così potrei continuare un'ora con tutte queste cose. Leggere i frogli significa che le prime cinque pagine si legge una certa cosa, un certo discorso. Le seconde cinque pagine si legge esattamente l'opposto di quello che sta detto nelle prime cinque. Qui tutti esaltano Freud, grande pensatore, e nessuno l'ha letto. Men che meno era stato letto 50 anni fa, perché in italiano non c'era. C'era solo in tedesco e in inglese, ma qui in francese. Però Freud è qua e Freud di là. No, Freud è qua e Freud di là. Vediamo esattamente come stanno le cose. E così potrei dire del narcisismo. Lo schizofrenico per Freud non è come nella realtà anaffettivo, fatuo, stolido, si diceva in psichiatria, è un eccesso di libido, non so se mi spiego, proprio esattamente questo è pazzo, come un eccesso di affettività e di libido fa la schizofrenia. Dico, ma siamo fuori dal mondo, ecco. E per cui scrissi, no, guarda, la pulsione, dice Freud, è la fame e la sete. La fame e la sete è un disquilibrio organico, è un disquilibrio idrico. Basta che bevi un bicchiere di acqua e la sete passa. La pulsione si elimina con un bicchiere d'acqua. Io non mi spiego. Per cui scrissi, guarda che la pulsione è annullamento. Un'idea, una scoperta dal lavoro che facevo, per cui è il superamento della distruzione come distruzione di cose e di persone, per fare la non esistenza. E vedi un po', lì a Chianciano ho sentito un bellissimo discorso della Bonino, che diceva, noi poi l'aggressione è proprio di pazzi, no? Di criminali, di pazzi, no? Di, come si chiama? Non Fisichella, come si chiama? Quello che gli hanno dato 10 anni di galera, che ha accoltellato, eccetera. Quello che è grave è che questi ti rendono non esistenti. L'ha detto la Bonino. Per cui, buongiorno, buonasera, ma di fatto la donna non esiste. Questo è l'annullamento, effettivamente. È questo fondo di anaffettività, per cui si diventa tutti cortesi, eccetera, eccetera, però di fatto non c'è nessun reale rapporto con l'identità della donna. Quindi io ho scritto Istinto di morte e conoscenza. Sì. Dopo aver scritto La percezione delirante, si è scatenata lì, di Dio. Si è scatenata nei freudiani. Eccetera, eccetera. Perché? Perché evidentemente quello dimostrava in cui c'era la teoria della nascita e così, e Freud è quello che dice invece, cattolicamente, strano, no? Che lui era ebreo, ateo, però in verità dice, 1926, inibizione di sintomo angoscio, nonostante l'enorme cesura del parto, non esiste nessuna differenza tra feto e neonato. È quello che sostiene la Chiesa Cattolica. Dico, beh, di fronte a questo dico, no, qui le cose sono un po' diverse. Io ho scritto un libro, come fa qualsiasi libro cittadino e studioso, ma figurati, sono diventato il pazzo criminale, insomma, che sono diventato? E qui addiveniamo alla tua domanda. La sinistra. La sinistra ha impostato e ha seguito questa calunnia, chiamiamola così, questa diffamazione, questa, come si dice, linciaggio dell'identità, dell'immagine e della personalità, che è da tutte le parti, questo è il grande mistero. Ma nonostante questo, cosa è accaduto? Che un sacco di ragazzi, di giovani e non giovani, professori, non professori, medici, sono venuti a migliaia, nonostante questa diffamazione. E si è formata un'analisi, l'analisi collettiva, dico sempre, non l'ho fatta io. L'analisi collettiva l'hanno fatta gli altri. Io ho risposto. Io non ho mai pensato, adesso da domani faccio l'analisi collettiva, assolutamente no. Io sono andato a fare un corso di supervisioni all'Università di Roma nel 75 e dopo un po' di tempo la sala si riempì di centinaia di persone che cominciarono a chiedermi ma io ho fatto un sogno, eccetera. E ora questa interpretazione dei sogni andava sempre dietro l'autopagamento interpretata nello studio con la doppia porta. Io ho risposto pubblicamente e lì è cominciata l'analisi con le cifre. Dopo un po' di tempo la stanza non bastava più e erano più di 130 e ho fatto il secondo seminario, la seconda seduta, poi ho fatto la terza perché la gente continuava a aumentare e ho fatto la quarta e poi ce ne siamo andati, ho trovato lo studio privato, ho portato tutto perché vedi bene il direttore di psichiatria, organicista naturalmente si dice, diceva che c'era un problema troppo grave, che era che uno aveva fatto un pupazzetto sul muro. Vabbè, per fortuna ho trovato questo magnifico locale che sta a San Cosimato, a Tevere, e ho continuato portando questa gratuità, questa libertà, che ovviamente era ovvia in un istituto universitario, no? Essendo un'istituzione pubblica non potevo chiedere l'onorario della seduta di psicoterapia. L'ho portata con la stessa impostazione nel mio studio privato, e ormai sono 30 anni, 5 all'università e 30 a Via Roma Libera si chiama. Chiaro. Per cui nessuno, come invece era nella psicanalisi individuale, deve fare i conti con la propria tasca per venire a fare psicoterapia. È assolutamente gratuito per tutti i poveri. Se uno pensa bene che ci sono le spese, eccetera, e mi lascia quello che vuole, qualche monetina o una cartina da 5 e qualcuno più generoso da 10, vabbè, mi serve per pagare le spese dello studio e per mantenermi, perché io poi, per atto d'amore, per la collettività, per la società, per i gruppi indefiniti, perché io non chiedo nemmeno il nome e cognome, non so niente, il numero del telefono, non so, mi interessa l'incontro umano e in particolare l'incontro umano in corso. E quindi qui ci sono queste proposizioni di assoluta, si può dire, popolarità, per cui invece nella psicanalisi è codificato che se uno non paga profumatamente non può fare l'analisi. Certe volte mi è uscita qualche cosa, forse da querela, è una struttura criminale impedire, vietare a tante persone che vogliono la cura psicoterapica perché non hanno i soldi o perché ne hanno pochi, perché i vecchi psicanalisti, quelli che sono adesso, non ho la più pallida idea cosa facciano, pare che si sia sfasciato molto una cosa, dovevano fare 3 sedute dovendo pagare un sacco di soldi, non so che cosa può corrispondere in termini di euro eccetera, ma certamente 2.000 euro se non 3.000 sicuramente al mese, perché facevano 3 e anche 4 sedute alla settimana. Ci siamo? Secondo, questa realtà collettiva, libera, assolutamente gratuita, in cui c'è un rigore del setting assoluto, io non faccio nemmeno 3 minuti di ritardo e sono ormai 35 anni. Questo corrisponde alla massima libertà di ciascuno, che può venire, non venire, parlare, parlare poco, parlare molto, troppo no, ma molto sì, e farsi curare, eccetera, eccetera, andarsene, ritornare. C'è gente che torna dopo 15 anni, c'è gente che torna dopo 5 settimane, c'è gente che viene sempre, c'è gente che viene da 35 anni. Insomma, la cosa più libera con il massimo rigore. E c'è una proposizione, adesso vedrò di raccontare, per cui la terapia funziona, la cura funziona, la gente guarisce perché c'è una realtà collettiva. E ora questa popolarità, gratuità, questa faccenda deve aver saltato l'istituzione e aver portato nel privato il fatto economico è indispensabile, no? Io ho fatto saltare tutto. Non dovrebbe interessare la sinistra? Io adesso lo chiedo a voi se mi aiutate. Perché invece si sono scatenati come bestie feroci a insultare guru, non guru, psicoguru? E che ne so? Il bello della cosa è che questo cominciò con un certo Guarini che adesso sta con Berlusconi. Cioè è uno di destra. Cominciò sul Messaggero nel 77, il 9 novembre 77, con gli insulti, le definizioni, psicomante, guru, eccetera. E poi, pronto, sì? Sì. Ah, sento... Eccomi. Perché la sinistra ha seguito questa cosa qui? Sinistra c'erano alcuni fregliani, ma è... E questo è tutto da studiare, è tutto da vedere. Come, non era Marx che diceva essere sociale? Non è che Marx che diceva dell'uguaglianza? Io con la teoria della nascita ho imposto l'uguaglianza e non la differenza, è chiaro. Freud diceva che la malattia mentale era incurabile, che poteva farsi soltanto l'isteria e che la psicanalisi non è cura della malattia, perché la malattia non esiste. E come mai questa sinistra invece si è scatenata in questa maniera? Questa è tutta una ricerca da fare. Tanto si è che poi invece, poi questo l'ho detto, questo è un altro particolare, con Bertinotti sembrava che invece si fosse aperta, disponibilissima i primi 2 anni, furono cose straordinarie, poi l'ho detto 1000 volte, lascia tutto. E mi presenta come segretario leader di questa area che adesso speriamo venga conquistata da radicali verdi e socialisti, un catto comunista. Mamma mia, Fausto caro, non ci posso stare. Io porto migliaia di persone che mi hanno sempre seguito la psicoterapia a un leader catto comunista. No, non esiste, questo è un suicidio, è la distruzione dell'analisi collettiva. E difatti ho detto sempre no, assolutamente no. È venuto fuori il grande Marco, che invece ha mostrato di interessarsi notevolissimamente alla teoria della nascita, a tutte queste cose che vado accennando e di cui discutiamo. Abbiamo parlato più di 2 ore in agosto, eccetera, in cui c'è qualche divergenza di tema, tutto da discutere, tutto da vedere. Disponibilissimo, cioè questa sua identità liberale, radicale, socialista, trasgressiva, di rivolta, di protesta, eccetera, funziona perfettamente con la teoria, eccetera, e così via dicendo. Perché la sinistra, anche la sinistra radicale, invece fa tutto il contrario, non lo so, ognuno è libero di fare quello che vuole, per carità. Però diventa un po' incomprensibile. Certo, la critica al comunismo c'è. La critica al comunismo, soprattutto per questa storia dell'uguaglianza e così via, dice. Di economia politica io non ne so assolutamente niente, ma pare che non abbia funzionato come la Cina dimostra, no? Certo. Quanto si tratta di cose umane, se il cardine è l'uguaglianza, l'uguaglianza non sono le giacchette grigie di 1 miliardo di cinesi. L'uguaglianza non è il letto di Procuste di tagliare tutti gli stipendi alla gente, salvo quello dei dirigenti comunisti, con 7 macchine. No, l'uguaglianza è questo che dico io, sta nella teoria della nascita, nella realtà umana l'uguaglianza, e non nelle giacchette grigie. E sarà per questo che non lo so, che altro ci può essere motivo. Io personalmente con questi non ci ho litigato, anzi ho una storia di simpatia durante la guerra, in cui stavo dietro a dei partigiani che erano comunisti. che altro, qui appunto ci sarebbe da studiare il fenomeno cento e cento volte, perché doveva essere accolta proprio a braccia aperte una teoria della nascita, un discorso di questo genere. E invece no, invece spero che l'accolga quest'area verde radicale, eccetera. Se vedremo, no, vedremo se sarà solo. Così. Vedremo, vedremo, naturalmente continueremo a parlarne. Ma volentieri, appunto, volentieri. Io voglio ricordare, il titolo del libro è 2006, come l'anno in cui su Left uscirono questi contributi di Massimo Fagioli. Io la ringrazio molto, professore, torneremo a sentirci. Grazie a voi, va bene.